Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sarà più facile l'ammissione agli esami di maturità. Dal 2018 non sarà più necessaria la sufficienza in tutte le materie, ma basterà la media del 6, compreso il voto di condotta, per essere ammessi all'esame di Stato che conclude le scuole superiori. Un 8 in ginnastica, ad esempio, potrà compensare un 4 in matematica. Beh, io mirerei al 10 in condotta. Mi posso beccare un 4 in matematica, ma anche un 4 in italiano. Una pacchia. Allora, premetto, mi piacerebbe, giuro, lo farei volentieri, rispondere alle vostre interessantissime domande sui segreti del colon, ma non continuate a mandare sms della trasmissione precedente. Non sono attrezzato, posso studiare. Invece oggi voglio parlare della nuova maturità. Come ho già detto al giornale radio, io ero uno studente pessimo, ero una vera bestia, non voglio predicare bene e bazzicare male. Mi sono immaginato quale sarebbe stato il mio atteggiamento se avessi oggi letto i giornali, quando mai leggevo i giornali, figuriamoci, avessi sentito dire per voce di strada dai miei scapestrati compagni mentre andavamo a giocare a biliardino nel baretto al di fuori dell'istituto salesiano che mi mandavano al liceo, che la maturità sarebbe stato quello che si prefigura essere per il 2018. Ma avremmo fatto i salti fino al cielo, avremmo detto basta, avremmo fatto come Pinocchio e Lucignolo quando buttano via le cartelle, gli abbecedari e se ne vanno con l'omino di burro verso il paese dei balocchi. Saremmo volentieri diventati asini per un anno, veramente una pacchia, è veramente qualcosa che manda a repentaglio ogni desiderio comunque da parte dei genitori di dare un senso all'educazione dei figli. Per farvi capire esattamente di cosa si tratti, vi leggo un documento segreto che per vie traverse è arrivato nelle mie mani. È vergato con bella calligrafia, è fatto da un gruppo di professoresse, non si sa da quale città d'Italia, ma se lo stanno scambiando via WhatsApp. Se lo mandano queste tutrici dell'antico rito dell'educazione scolastica. È intitolato La buona scuola e descrive, secondo la loro ottica, quale sarà l'escalation della maturità classica, scientifica, tecnica e via dicendo. Ammissione agli esami di maturità. Anno 2018, basterà avere la media del 6, come ho già detto prima. Pigliatevi un 10 in religione, fate un po' il lecchino del prete, 10 in condotta, state bene bonini, volete anche stare scalmanarvi, tanto non c'avete niente da fare, potete prendervi almeno 4-4 in tutte le materie. Con condotta, con ginnastica, siete bravi a giocare a pallone, e religione messa insieme, potete anche non andare a scuola, anzi non comprate i libri, usate i soldi per più illustri finalità. Anno 2030, dicono le brave professoresse, basterà avere almeno 3-6 e aver visto una volta notte prima degli esami. Anno 2040, basterà avere almeno 2-6 e conoscere uno stato che coltiva barbabietole da zucchero. Anno 2050, basterà avere almeno un 6 e far esplodere la carta della brioche in almeno 6 secondi. Studiano attentamente i loro studenti. Anno 2060, la somma dei tuoi voti dovrà essere almeno 6, quindi basterà avere uno in tutte le materie, ma meno ancora, degli zeri 6-1. Anno 2070, basterà avere un cugino che una volta ha preso 6. Anno 2080, basterà girare con area di sufficienza, perché sia sufficiente. Guardate, merita veramente un encomio. Propongo al MIUR di risalire alla scaturigine di questo documento. Anno 2090, l'importante è non avere insufficienze renali. Quindi tranquilli, l'anno 2090, basta che non alzate troppo il gomito, bevete moderatamente, sarete maturati. Anno 2100, l'esame di maturità non esiste più, finalmente. Gli unici diplomi validi li dà la scuola della strada e l'università della vita. Auguri a tutti, 800240024, siete contenti finalmente? Le luci dei vostri occhi, i vostri pupilli non dovranno più tornare a casa con quel loro animo frustrato, addolorato, perché hanno preso un brutto voto, temono per gli esami, poverini, si esauriranno, faticheranno, soffriranno, no, niente, basterà arrivare indegni al 2100, non ci sarà più maturità. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Non mi sembra una cosa molto intelligente. Magari posso anche passare l'esame nonostante abbia una materia insufficiente, però comunque magari quella materia insufficiente non sono capace di affrontarla poi in un futuro quando mi sarà più utile. Da studente me la vivo in modo positivo perché comunque alleggeriscono un po' l'esame, cioè alleggeriamo, mettiamo tra parentesi, perché non è proprio un esame facile, quello di quinta è molto importante. Queste erano delle voci di studenti su quella che sarà la nuova maturità, ma alla fine non possono che gridare al giubilo, gridare all'essere stati miracolati. Hanno visto che poi è facile, in fondo, forzare laddove si può e ciò che si vuole. C'è stata una sorta di raccolta di petizione da parte degli studenti, pubblicato su un sito abituato e usato normalmente per fare petizioni, perché quest'anno gli studenti del liceo scientifico erano terrorizzati dal fatto che come prova d'esame cadesse fisica. Fisica non la vogliono, perché? Perché è troppo difficile. Sono stati esauditi perché il MIUR ha annunciato che anche quest'anno avranno matematica, secondo loro è più facile. Questa non me la spiego proprio, perché guardate, studiare fisica dovrebbe essere affascinante per un ragazzo. Tutta la fiction, la fantascienza, i telefilm, ma anche i videogiochi, quelli che hanno varie dimensioni, spazio-temporali, sono tutti basati su dei principi avveniristici e di sviluppo della fisica. Perché non vi piace la fisica? È troppo difficile. Il MIUR vi ha accettato la vostra petizione e con l'hashtag No Panic è stato dato l'annuncio delle materie. Da ieri sappiamo le materie d'esame e naturalmente fisica non c'è. Quindi l'anno prossimo non comprate nemmeno il libro di fisica, tanto inutile per la maturità. Se pigliate 10 religioni e 10 in condotta potete anche evitare, fare scena muta. Mario Rusconi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a allora, tutti. Allora, io l'ho presa un po' così, allegra, ma il punto di vista del vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, AMP, che è una persona che da sempre ha seguito tutti gli sviluppi, qual è rispetto a questa notizia che manderà sicuramente in visibilio gran parte dei liceali, che dall'anno prossimo la maturità, in fondo, sarà, diciamo, una formalità perlomeno partecipare o essere ammessi? Ma guardi, noi abbiamo espresso un giudizio molto critico su questo tentativo di cambiare la maturità, anche perché non è ancora una norma definita e con un governo un po' periclitante non sappiamo neppure se sarà in effetti convertita in qualche cosa di pragmatico. Perché gli atti non sono belli, come diceva il maiale, voglio vedere far la punta al palo. Perché siamo contrari? Per vari motivi. Abbassare l'asticella vuol dire rendere sempre più sospettose chi? Le università e il mondo del lavoro. Se noi avessimo una maturità fatta bene, le università italiane, statali e non statali, non avrebbero bisogno di ricorrere ai test d'ingresso, perché si fiderebbero di quello che la scuola fa. Questo invece non... Come, scusi, professor Rusconi, voglio essere ancora più cattivo di quanto lei possa immaginare, ma non le sembra un po' una furbata, tipo quelle leggi truffa che facevano con il premio di maggioranza negli anni del monocolore democristiano? Dire fanno media tutte le materie, ma si rende conto, scusi, prendere un 10 in ginnastica e un 10 in religione ci vuol poco. Perché questo dovrebbe far media con le materie basilari per la formazione di uno studente universitario? Guardi, su questo sono d'accordo, tenga presente solo che religione non ha i voti in decimi e quindi non rientra. Vabbè, togliamo la religione cattolica e mettiamo naturalamente absit iniuria verbis, sì, non vorrei essere scomunicato. Voglio dire, vabbè, non succede niente. Quello che voglio dire è che abbassare sempre più l'asticella, rendere sempre più semplici, diciamo così, le prove di maturità, non vuol dire rendere più maturi gli studenti, vuol dire anzi venire incontro dirò una cosa forse un po' cattivella, venire incontro anche a quegli insegnanti, non moltissimi, un po' sfaccendati, ma ci sono, che a questo punto dice vabbè, non c'è neppure bisogno che io insegnante mi occupi moltissimo della preparazione dei miei studenti, perché tanto l'esame di maturità è così semplice. Ma guardi che la cosa più grave, probabilmente messa meno in evidenza anche dai giornali, è l'eliminazione della cosiddetta terza prova. La terza prova, che era la più temuta dagli studenti, che era un insieme di quiz, diciamo così, di domande su varie materie, noi chiedevamo che diventasse un qualche cosa di nazionale, cioè che l'Invalsi, l'istituto che si interessa appunto della valutazione, la facesse uguale per tutta Italia, perché il problema vero è che il cento e lode di Catanzaro non corrisponde al centro e lode di Sondrio, certo, già lo sappiamo, certo, lo dicono, sì, tutti i giornalisti e così via. Almeno una prova di tipo oggettivo, ne vale a dire che valesse per tutti. Beh, è stata persino eliminata quella, cioè noi chiedevamo che fosse migliorata la cosiddetta terza prova, è stata completamente eliminata. Allora a questo punto noi diciamo eliminiamo gli esami di maturità. Facciamo in modo che siano le stesse commissioni che fanno gli scrutini a dire il ragazzo alla fine dello scrutinio è promosso, bocciato e così via, e poi se la vedrà lui nella vita, se la vedrà con l'università, insomma. Sì, ma a questo punto eliminiamo anche la scuola dell'obbligo, che ci vanno a fare a scuola, se adesso è una cosa che va così contro la loro felicità, tanto gli diamo tutti gli strumenti per vegetare a scuola senza nessun bisogno di una verifica sul loro impegno, sulla loro preparazione, che senso ha? Cioè, vorrei capire qual è, secondo lei, la filosofia che è dietro questo tipo di presa di posizione. Secondo me c'è un pizzico di demagogia, un pizzico di buonismo, un pizzico di superficialità. Perché voteranno l'anno prossimo quelli che fanno la maturità, e quindi probabilmente questo già gli fa l'occhiolino, non ma lo so. Sì, ma tra l'altro probabilmente io non ci vedo neppure, diciamo così, una finalità, ecco, come diceva lei, politico-partitica, perché questo avrebbe anche un senso, insomma. Io ho sempre più paura della persona stolta rispetto alla persona cattiva, perché della persona cattiva riesco persino a immaginare quali sono i suoi scopi e quindi a prevenirli o a difendermi. Della persona stolta non so come si sta muovendo. Cioè, secondo me c'è molta improvvisazione, insomma, non è un caso che il mondo della scuola ha reagito in maniera negativa. Volevo fare un'osservazione su fisica e matematica. Lo sa perché gli studenti temono fisica? Perché non buttiamo tutto addosso agli studenti, ma anche anche a noi presidi e insegnanti, perché il 70% degli insegnanti che insegnano matematica e fisica, lo so per esperienza, fanno solo matematica, non fanno fisica. Sono insegnanti di matematica e quindi conoscono bene la matematica, e una delle proteste che i ragazzi spesso fanno quando stanno per arrivare proprio agli esami è quello del dire: preside, scusi, ma ci sta facendo solo matematica, fisica è un po' come educazione civica per la storia, che diventa, si fa, come si dice a Roma, una romanella, una cosa un po' così. Non è d'accordo che invece sarebbe una materia che darebbe degli strumenti scientifici per leggere quelli che sono gli strumenti di intrattenimento più frequentati? La maggior parte dei videogame sono basati su elementi che bene o male traggono spunto dalla fisica. Guardi, su questo sono perfettamente d'accordo. Io, per me, ho un riferimento personale. Io ho un figlio che è un ingegnere nucleare, che ha fatto 4 esami di fisica. Mi dice: la fisica è la materia più difficile, ma ti assicuro è la più affascinante in assoluto. E ci credo, perché io sono laureato in lettere classiche, lui è laureato in ingegneria nucleare. Quindi sarebbe stato da rafforzare il discorso della fisica. Invece, però, per rafforzarla non si può semplicemente penalizzare lo studente facendogli fare l'esame di fisica, ma formando gli insegnanti, perché il vero bubone negativo della scuola italiana è la formazione degli insegnanti. E certo, averne immesso in ruolo circa 100.000 senza la maggior parte dei quali senza concorso, senza averli testati, senza averli formati, non è che si viene incontro alla buona scuola, anzi c'è il rischio di una scuola superficiale. Fermiamoci un attimo, professor Rusconi, voglio sentire qualche ascoltatore. 800 24 00 24, non vorrei far soltanto lo scandalizzato, quello che vuol tornare ai tempi del rigore scolastico, vorrei capire esattamente come vedete voi questa deriva, questa linea, poi, come dice giustamente il professor Rusconi, tutto transeunte oggi si dice una cosa, poi cambia un governo, cambia la situazione, ricambia tutto, ma i professori rimangono sempre gli stessi. L'idea degli studenti che la scuola sia soltanto un passatempo non giova loro, e poi il redde razione ma arriva. Quando si iscrivono alla facoltà, già che sono asini e continueranno a frequentarla da asini e andranno a confrontarsi con studenti che magari hanno studiato all'estero, si renderanno conto che non vale nulla il tempo che loro hanno perso, tanti anni, tanto valeva facessero qualcos'altro, veramente si divertissero H24. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno agli ascoltatori, ma io forse sono una voce fuori dal coro. Io sono per l'abolizione addirittura dell'esame di maturità, in quanto vorrei avere la spiegazione da un professore, dai professori che, dopo aver analizzato e giudicato uno studente o gli studenti per 5 anni e avendoli promossi, visto che arriviamo alla quinta, e avendoli promossi anche in quinta, come mai hanno bisogno di sentirla ancora per 3-4 giorni sugli stessi argomenti che hanno insegnato e su cui hanno interrogato i ragazzi per 5 anni? Cioè, non, tra l'altro giudicati da commissioni estranee che non conoscono fino in fondo i ragazzi, quindi con il rischio di dare giudizi non equi, e quindi magari di rovinare anche la carriera fatta e i sacrifici fatti da questi ragazzi. La percentuale dei bocciati penso che sia bassissima. Professor Rusconi, aspetta, resti in linea, Dario, sì. La faccio male. Professor Rusconi, rispetto a quello che dice Dario, che ancora è in linea e interloquisce con noi, Ma guardi, io sarei tra l'altro per commissioni di maturità, so che il costo lo Stato non se lo può permettere, per di commissioni di maturità completamente esterne, perché non è vero che appunto una commissione esterna sia più cattiva eccetera, è un modo per dire alle commissioni, agli insegnanti interni, agli studenti, attenzione che se la vostra preparazione è valida, non deve essere valida solamente per il professor Rossi e per il professor Verdi che avete visto per 5 anni, deve essere valida nei riguardi di tutti. È il primo impatto con qualcosa che non fa parte della grande famiglia. Altrimenti c'è l'autoreferenzialità, cioè ce la giochiamo, ce la balliamo tutti all'interno nostro. Il fatto di avere invece un impatto con l'esterno è quello che poi gli studenti avranno all'università, nel mondo del lavoro. Non è che l'università vedono tutti i giorni il professore che li interroga e li conosce e ne conosce tutte le cose. Ma qual è il senso della battuta? Ecco, per rispondere a Dario, in effetti, diamo un senso. L'esame di maturità, dice, li conoscono a 5 anni, perché ci vuole una prova finale, un passaggio finale? Perché se fatto bene, se fatto con commissioni esterne, diventa un vero e proprio rito di iniziazione, perché altrimenti c'è il rischio dell'autoreferenzialità. Sto in quella scuola, i professori mi conoscono, hanno preso diciamo così visione di tutti i miei vizi, le mie debolezze, nello stesso tempo mi hanno coccolato. No, devo fare una prova con un esterno, perché poi quando farò un concorso, non è che le persone che farà, se sarà fatto bene il concorso e non sarà fatto all'italiana, non è che la persona del concorso mi ha vezzeggiato, mi ha curato, mi ha conosciuto prima. Devo poter affrontare l'incognita, il nuovo, questa è la vera maturità, sapere affrontare sulla base di competenze che ho maturato in famiglia, culturalmente, nella mia scuola, sapere affrontare la novità, l'esterno, questo è quello. Quindi che è il primo momento in cui uno studente il lettino rifatto alla mamma la sera, dal professore conosce, l'ambiente familiare, i bidelli, i corridoi, gli amici, le finestre, le palestre, ha l'impatto con il mondo, ti giudica qualcuno che non conosce, che non sa nulla di te, ti giudica soltanto in base a quello che sei stato preparato. Mi sembra un elemento interessante. Ci fermiamo un istante, aspetti anche Dare e Lucia che stanno al telefono e vogliono intervenire. Tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, parliamo di futuro esame di maturità di cui già abbiamo qualche pallida annunciazione. Ci spiega una professoressa perché gli studenti sono così felici che non ci sia l'esame di Stato di fisica. Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Ci spieghi. Volevo aggiungere un'informazione a quello che ha detto lei, che mi ha fatto un poco arrabbiare quando ha detto che gli studenti non la vogliono, sono contenti perché hanno fatto una petizione, 11.000 persone non ci date fisica, e poi quando hanno visto che il ministero ha dato matematica hanno detto che bello, finalmente amiamo il ministero. Va bene così, io non voglio fare nessuna polemica. Me lo spieghi lei. Volevo aggiungere un'informazione importante che posso dare di prima mano, perché io ho fatto l'insegnante di matematica e fisica in un liceo scientifico e sono ancora in contatto con le mie colleghe. È un buon liceo scientifico, ho avuto studenti che dopo sono andati alla normale, hanno fatto fisica o anche senza la normale, sono stati bravi. Quindi ai ragazzi la fisica piace. I suoi, ma in generale statisticamente no. Vabbè, statisticamente può essere, ma l'informazione non è questa. Scusa, no, professoressa, perché ognuno c'ha sempre l'orticello di casa sua che è il più bello di tutti. Lei ha un'esperienza personale in cui i suoi studenti a loro piace la fisica, siamo felici. La media non è così. Ma ce ne sono tanti, non sono. Scusi, la notizia che hanno fatto una petizione in internet. Migliaia di studenti per non avere fisica. Scusi. Posso parlare? Sì, prego, ma parli. Il problema è un altro. Il ministero manda delle simulazioni della seconda prova scritta. Da anni l'ha fatto per tutte le materie, lo fa tutti gli anni. Le simulazioni che ha mandato di fisica vanno molto oltre la preparazione e il programma che si può realisticamente svolgere anche in classi privilegiate di persone che amano la fisica. Ci sono 3 ore la settimana, non si può seriamente insegnare quello che pretenderebbe. Dove arriva mediamente il programma? Dove arriva il programma mediamente? Diciamo mediamente arriva le equazioni di Maxwell e a volte la relatività, quello dipende dalle classi. Manco le quello. Prove fornite come esempio dal Ministero sono molto al di là, ma non a giudizio mio personale. Cioè, oggi è uscita la notizia che fosse l'universo un ologramma. Lei come fa a spiegarlo ai suoi studenti? No, quello è assurdo. Io sto parlando di un programma più avanzato che è materialmente impossibile svolgere nelle 3 ore del programma di fisica. Quindi la protesta per degli insegnanti è nata da lì. Dice, allora, non contraddice quello che dice il professor Mario Rusconi. Cioè, la fisica è una materia considerata in fondo dai programmi, una materia che si studia solo in 3 ore, non si arriva nemmeno alla teoria della relatività, che oggi già bisognerebbe spiegare gli sviluppi, perché ancora è fondamentale, da quella dove si è arrivati. Cioè, non arrivo nemmeno a spiegare quella, cosa posso fare di fisica. Professor Mario Rusconi, ricordo, vicepresidente Associazione Nazionale Presidi, rispetto alla collega che ha fatto un'aggiunta a quello che abbiamo detto noi. Ma guardi, è vero, io pure ho avuto studenti che poi si sono laureati brillantemente in fisica, però non dimentichiamo il dato che ho detto all'inizio: il 70% degli insegnanti di matematica e fisica sono laureati in matematica e non hanno fatto il corso di fisica. Non è un caso che quelli che riescono meglio sono quelli che poi in linea di massima hanno avuto un insegnante che è laureato in fisica e che quindi conosce. Come la professoressa che ci ha chiamato. Ecco, questo è il discorso: se noi non investiamo, il problema vero della scuola italiana non è buona scuola, cattiva scuola, e tutte spesso baggianate che sono state dette anche contro la legge cosiddetta della buona scuola. E il problema è come investire sugli insegnanti, perché il problema della scuola non sono gli studenti sono il precipitato degli insegnanti. Se gli insegnanti non sono stati messi in condizione, lei pensi che per 20 anni consecutivi i contratti collettivi di lavoro stilati dai grandi sindacati da una parte e dal Ministero dell'Istruzione dall'altra hanno previsto l'abolizione dell'aggiornamento per gli insegnanti, è stato ripristinato da poco e stenta ancora a decollare. Cioè, se questo Stato non capisce, cioè, che rimanevano congelati per 30 anni magari perché non erano obbligati. Certo, a meno che non fosse un insegnante di scienze entrato 20 anni fa che non sapeva nulla 20 anni fa delle staminali, del DNA, faccio per dire, non sono un tecnico del settore, se non era una persona di buona volontà spendendo soldi propri per aggiornarsi, appunto questa persona rimaneva fuori dal circuito culturale. Sì, è stato stabilito che un medico che per 2-3 anni non legge la letteratura scientifica del suo settore, certo, non è più un medico, e un insegnante di latino, di greco, di matematica, di informatica, i sindacati di cui andiamo molto fieri in molte situazioni sono quelli che insieme al Ministero, di cui andiamo molto fiero, hanno tolto per anni, per 20 anni l'obbligo della formazione. Che sa che vuol dire togliere l'obbligo? Che lo Stato non si sentiva neppure obbligato di mettere dei fondi. Scusi, ma la scuola italiana cos'è? Mi spieghi? È un grande meccanismo di mantenimento al lavoro di professori o è il posto chiave in cui si forma la futura classe che dovrebbe avere in mano il paese? Ma guardi, mi duole dirlo, la scuola italiana è stata costruita da tutti i governi quasi, diciamo dagli anni 60 in poi, da tutti i governi di destra, di centro, di sinistra, friulani, calabresi, eccetera, per far star bene le persone adulte che stanno nella scuola, cioè vale a dire i professori, i presidi forse meno dati gli stipendi di bassi, i bidelli, i genitori, ma l'ultimo anello è sempre stato lo studente. Tuttora appunto i decreti che si stanno appunto discutendo in Parlamento trattano molto poco, diciamo così, degli studenti, molto en passant, insomma. E perché anche non protestino, alla fine gli si dà questi contentini. Anche l'esame di maturità fatto in questo modo, così via, raffazzonato, eccetera, per avere magari meno bocciati e per avere meno bocciati in maniera tale che si spenda di meno. Gli americani, che contano tutto, come lei sa meglio di me, hanno calcolato che per fare una riforma della scuola seria ci vogliono almeno 15 anni. In 15 anni noi abbiamo 5-6 governi, ognuno dei quali poi viene e dice: ho io la ricetta per modificare tutto. Io non dimenticherò mai che quando George Bush, il figlio, quello diciamo un po' più stolto del padre, fece la riforma della scuola, chiese ai democratici che erano opposizione di potervi partecipare. Quando presentò in Parlamento la riforma c'era Bush e vicino, non lo dimenticherò mai, Ted Kennedy. Questa è democrazia. Lei si immagina appunto un ministro dell'istruzione di centrosinistra con vicino un grillino che dice: sì, avete fatto tutto bene, o con uno di Rifondazione, di Serre. Cioè, dovrebbero lavorare insieme comunque, perché il finale, certo, il finale è quello. Ma noi non abbiamo questo spirito civile che purtroppo ci manca da millenni ormai, direi dall'epoca dei comuni in poi. Sentiamo ancora qualche ascoltatore. Vincenzo, buongiorno. No, io vorrei, ho fatto. Sono fatto un'idea un po' più terra terra. Pronto? Sì, l'ascolto. Sì, mi sono fatto un'idea più terra terra della questione. Cioè, dico, in Italia stranamente ormai non si fanno più riforme organiche, strutturali, serie, ma si fanno riforme politico, sociali, economiche. Allora, malevolmente dico che c'è una tendenza a mettere il gregge dentro il recinto. Cioè, questi giovani più li teniamo fermi e più meno chiederanno lavoro, meno chiederanno attuazione della vita pratica. Quindi teniamoli, facciamoli tutti promossi, tutti accedono alle università. Certo che così, Vincenzo, non si danno certo gli strumenti per rappresentare un'eccellenza. Ma questa è una volontà politica ben precisa. Se noi oggi guardiamo tutte le riforme nel campo giuridico, nel campo della giustizia, allucinanti, non tendenti a una vera risposta ai servizi, al contrario, rendiamo tutto raffanato, tutto... Vabbè, adesso, è un po' generico, è un po' generico, però andiamo più nello sullo specifico. Massimo, buongiorno, insegnante di ruolo. Buongiorno. Allora, io volevo dire un paio di cose su questa. Io vorrei difendere questa scelta. Premetto che attualmente io sono di ruolo nella scuola media, però in passato, come credo quasi tutti i colleghi, ho lavorato nella scuola superiore e sono anche stato ovviamente commissario di maturità. E voglio dire due questioni. La prima è questa. Secondo me, dal punto di vista concreto, non cambierà niente, perché questo obbligo dell'avere 6 in tutte le materie esiste dal 2008-2009. Tanto già davano 6 comunque, il 6 politico lo davano comunque. No, ma sì, cioè il discorso è che non è che esiste da 100 anni e non è che prima c'era questa orda di ammessi in più, cioè sempre la percentuale sono sempre le stesse, ma dagli anni 70, tipo intorno al 93% ammesso all'esame. Quindi il fatto è che se il consiglio di classe decide che quel tizio deve fare la maturità, deve fare l'esame, il 5 diventa 6. Ma questo oppure perché non lo deve fare, me lo dica, le faccio la domanda con malizia. Perché? Perché poi alla fine conviene portare, è un disdoro per la scuola dire abbiamo bocciato tante persone, non abbiamo mandato alla maturità. Sì e no, sì e no. I genitori ricorrono al TAR, cosa succede? Sì, ma sì, c'è una grossa conflittualità, ma questo è un tratto dell'Italia che se metti una nota ti trovi i genitori, questo vabbè, questo d'accordo capita, ma credo che non capiti solo agli insegnanti, credo che capiti in tutte le professioni. Però il ragionamento, secondo me, è un ragionamento leggermente diverso, che è questo. La valutazione meramente numerica delle discipline non è condizione necessaria né sufficiente perché un singolo studente sia pronto, diciamo, per fare la maturità. Maturità non vuol dire solo sapere, non so, la matematica, la fisica o che ne so io, la ginnastica, ma anche aver acquisito una serie di competenze che sono differenti, tipo essere in grado di lavorare in gruppo, avere un metodo di studio, essere in grado di discriminare le informazioni. Questo lei ha totalmente ragione, professore. Okay. Però allora, la base rimane. Sì, poi no, un momento. Quindi il consiglio di classe non è che può valutare soltanto quel numero lì. Cioè, secondo me sarebbe meglio che venisse chiaramente esplicitato quello che già accade, cioè che il consiglio di classe decide, punto, senza nessun criterio numerico. Se io ritengo che questo soggetto ha tutti 10, però è un antisociale, è uno che non è in grado di affrontare la società perché per esempio è litigiosissimo, non ha o comunque ha un comportamento completamente adeguato, non deve fare la maturità, punto, indipendentemente dal fatto che tutte le materie sono 9. Una volta davano 7 in condotta, così facevano ai tempi remoti, in cui facevano segare uno e davano un voto basso in condotta, il tipico disturbatore di scuola, e risolvevano così. Vede che allora conta di più il giudizio degli insegnanti che l'hanno visto in 5 anni che non una legge che può stabilire un criterio, che tanto non potrà mai frapporsi tra la volontà né prima di questa nuova norma, né con quella vecchia, che è quella che ho fatto io, in cui non c'era nessun limite numerico, né quella che ha fatto, immagino, lei, in cui addirittura non davano portate neanche tutte le materie. Nessuna norma può mettersi tra... Sì, io fui fra i primi fortunati che mi dicevano quelli dell'anno prima, e noi portavamo tutte le materie, voi fortunati, infatti più o meno mi trovo in questa situazione, portavamo solo 2 materie, quindi eravamo più contenti, diciamo, rispetto agli altri. Poi hanno riportato le materie, poi si è ritornati indietro. Insomma, vedo che è difficile stabilire un principio oggettivo tra quello che nel mondo ideale dovrebbe essere quello che, ahimè, è una prassi ormai, come dice giustamente il professor Rusconi, avvalorata negli anni, per cui dice tanto ormai che senso ha più fare una maturità quando già la scuola è un casino totale. Fermiamoci un istante, tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog. Cronache meridiane. 800 24 0024, sentiamo pareri contrastanti sulla possibile riforma della maturità scolastica, e poi da quello che sento dire anche dai nostri ascoltatori più informati, cioè gli insegnanti, alla fine poi in fondo cambia poco, pertanto passavano tutti lo stesso. Sentiamo Michele un attimo. Michele, buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, volevo intervenire a proposito, sto sentendo un sacco di cose molto corrette. Siccome credo che andare a scuola non sia una prescrizione medica, per cui già buona scuola, mi viene da ridere quando sento gli esami come devono essere fatti, perché non introdurre un sistema di verifica dal terzo anno, trimestralmente, in maniera tale che a fine dell'anno, con una commissione esterna, se uno deve andare a fare il contadino, che andasse a fare il contadino. È vero che ormai la società non è più meritocratica, ma andare a scuola per andare a fare tutto all'infuori dello studio mi sembra proprio ridicolo. Guardi, io periodi felici non li ricordo onestamente, io il liceo l'ho fatto negli anni 70, non è che la situazione era molto diversa, è parecchio tempo che c'è questo. Avevo sempre dei genitori di nonni, cioè ai nostri tempi studiavamo ore al giorno, c'erano dei professori severissimi, quella sì che era scuola. Io non rimpiango la mia scuola e non voglio fare quello che hanno fatto tutte le generazioni. Osservo soltanto, mi dà l'idea che così non ha senso. A scuola dobbiamo andarci volentieri, dobbiamo essere motivati, fare cose che a loro piace fare, non dovrebbe essere una purga andare a scuola. Si vede che la scuola non è più adeguata a quella che è la contemporaneità. Insegna qualcosa che gli studenti stessi non sentono utile, non sentono applicabile nel loro quotidiano. Potrebbe essere questa un'idea. Lucia, buongiorno. Guardi Nicoletti, che se tocca a me devo deluderla, mi chiamo Lucio. Ah, Lucio, scusi. No, mi perdoni, ho letto male. Lucio, buongiorno, sì, a lei. Assolutamente, Lucio. Il destino di colui che viene dopo gli altri è che probabilmente si ritrova ad affermare cose già dette. Beh, allora, esprima il suo punto di vista. In linea di principio io sono dell'idea che una scuola, una buona scuola, senza parafrasare quello che il governo attualmente pubblicizza, dovrebbe essere quella di formare la nuova classe sociale. Ora, la formazione, a mio modo di vedere, passa quasi esclusivamente attraverso un buon liceo e, nel caso specifico, un buon liceo classico. Chi le sta parlando è uscito fuori da un istituto tecnico e poi si è laureato in ingegneria. Guardi, ero bravino, mi diplomai all'epoca con il massimo dei voti e arrivai, non le nascondo, anche con una certa spocchia all'università. Bene, io ricordo che tutti i miei colleghi che venivano da un buon liceo classico andavano come il vento. Alla fine del corso di laurea, bene o male, si era livellato. Lucio, questa è la cosa che anche questa si dice la generazione, anch'io ho fatto liceo classico, dipende come uno lo fa, quali sono i docenti, come la scuola, quali sono i professori. Un buon liceo classico fatto bene, siamo d'accordo, il liceo classico fatto come qualsiasi altra scuola è acqua fresca e lascia il tempo che trova. Un altro parere informato, professor Gaetano Domenici, buongiorno. Buongiorno. Presidente Fondazione Roma 3 Educational, docente presso Roma 3, ha scritto un famosissimo manuale di valutazione che ha venduto ben 180.000 copie. Lei come vede, diciamo, le prime avvisaglie di questa maturità 2018? Io credo che ci siano punti, elementi positivi e anche qualche elemento non del tutto positivo che potrà tuttavia essere cambiato lungo l'asse del tempo prima che si arrivi ai decreti definitivi. Ecco, ma non è diciamo una rivoluzione copernicana, mi sembra che già da anni il trend sia quello di una maturità che in fondo sia una grande sanatoria, che comunque diciamo lo spartiacque avverrà poi con l'università, avverrà con la vita, avverrà con il lavoro. Questo sì, e tuttavia per decenni è stato definito l'esame di maturità come l'esame della vita, come diceva lei poco fa, in quanto rappresentava un momento di grande rilievo nella carriera, nello sviluppo dell'individuo e soprattutto nell'esperienza dei singoli soggetti. E quindi è il primo vero passaggio di iniziazione all'età matura, diciamo adulta, da ragazzini. In qualche senso sì, per alcuni versi. Cioè ti valuta qualcuno che non è un amico, che non conosci da anni, uno sconosciuto. È la prima volta che si è sottoposti ad un vaglio critico pubblico circa la propria capacità, le proprie capacità, ma soprattutto l'impegno e le competenze, le conoscenze, i saperi acquisiti. Quindi era un impegno molto gravoso che tuttavia veniva affrontato con grande entusiasmo proprio perché rappresentava... Ma cosa è cambiato oggi nella struttura della società, nelle attese rispetto alle classi dei giovani? Perché questa prova non sia più una prova tale, non sia un passaggio di stato, dallo stato del ragazzo allo stato dell'aspirante adulto. Dunque, è una prova che ai noi cambia continuamente. Evidentemente ci sono delle necessità legate all'evoluzione tecnologica, sociale, scientifica, politica, sociale, come sappiamo tutti, culturale. E però è anche vero che dovremmo cercare di, all'interno di dinamiche di cambiamento, avere dei punti fermi che permettano anche alla scuola di organizzare meglio il proprio lavoro, e i punti fermi dovrebbero rappresentare valori condivisi sul piano culturale e formativo da parte della società. Le finalità attribuite da una società democratica come la nostra, alla scuola, alla formazione, queste finalità sono di grande rilievo e sono queste che dovrebbero improntare poi le caratteristiche delle prove di verifica dell'apprendimento degli allievi. Comunque questa maturità presenta dei pregi per quanto concerne per esempio l'uso della terza prova, ovvero l'abolizione di una terza prova che in realtà non rilevava granché. Era quasi del tutto formale, perché dava, era un aspetto importante della formazione e tuttavia non formalmente rilevante perché veniva comportata dai docenti e quindi addirittura era chiamato quizzone, però è una prova che perciò non sì, però, rilevava. Mi sembra che però la sintesi, la vulgata, quello che viene percepito dai ragazzi è qualcosa che è stato semplificato e viva chi ci fa la vita più semplice, senza entrare nello specifico, alla fine la media con tutte le materie e quindi comunque il 6 diventa qualcosa di senza uscita. Allora, ci sono degli aspetti positivi, per esempio l'utilizzazione della terza prova in Valsi come prova che documentale, che tuttavia non rientra nella media, questo potrebbe anche essere superato, ma che tuttavia caratterizza poi la certificazione delle competenze dei soggetti e quindi il certificato di maturità, per comprenderci, perché viene messa lì. È una prova che in qualche modo i ragazzi dovranno accettare perché permette il passaggio agli esami di maturità. Non fa media, e questo potrebbe essere un aspetto leggermente negativo, è tuttavia una prova di grande rilievo a livello nazionale per i decisori politici, per gli stessi docenti, perché permette questa terza prova unica su tutto il territorio nazionale di capire qual è la produttività culturale della scuola senza dover fare indagini ad hoc. Allora, fermo un attimo, professor Domenici, solo una battuta, Marrusconi, su quello che ha detto il suo collega, che in fondo sono gli aspetti positivi, proprio in un minuto. Ma guardi, saluto intanto Gaetano Domenici che conosco da anni e stimo. Il fatto stesso che però la terza prova sia stata diciamo espunta e al suo posto non sia stata messa la prova in Valsi come prova che fa media, significa che in effetti la si è veramente depauperata di qualsiasi significato e i ragazzi la prenderanno appunto con molta leggerezza. Cioè, se vogliamo fare una cosa seria, la prova in Valsi deve diventare obbligatoria, noi diciamo, per tutte le scuole e fare media, perché se fa media, come diceva anche Nicoletti, educazione fisica, se fa media la condotta, perché non fa media la terza prova? Non è il fatto di sbagliare completamente la prova in Valsi, non è che poi preclude qualche cosa allo studente, perché se non è che se sbaglia completamente i quiz, diciamo così, della prova in Valsi, lui non sarà messo agli esami, diventa, vogliamo fare appunto... Scusi, entriamo troppo nel dettaglio, abbiamo intanto dato una prima idea, entriamo più nel dettaglio quando avremo qualcosa di più preciso sui decreti di questa nuova maturità, di cui ora abbiamo avuto soltanto un assaggio. Alla prossima!